Radio 24 Reportage. Sicurezza a scuola. Viaggio tra vizi e virtù. Di Nazareno Orlandi. Il caso di vita è un caso unico. Non era mai successo in Italia che per una folata di vento, una porta che sbatte, un ragazzo non torna più a casa. Quindi il giudice ha detto che vita è l'emblema della sicurezza, di come sono messe le scuole in Italia. Vito è Vito Scafidi e questa è la voce di sua madre Cinzia Gaggiano. Lo studente di Rivoli, in provincia di Torino, ucciso a scuola nel 2008 dal crollo di un controsoffitto, è il caso più eclatante di come si è ridotta l'edilizia scolastica nel nostro paese. Il maxi risarcimento di 2 milioni di euro che il Tribunale di Torino ha disposto per la sua famiglia non ha precedenti e riporta in primo piano il tema della sicurezza nelle scuole. Edifici che cadono a pezzi, banchi vecchi e consumati, scritte sui muri, infiltrazioni d'acqua e barriere architettoniche. Caratteristiche comuni a troppi istituti italiani. Non è sempre così, per carità, c'è anche una scuola migliore, moderna, adeguata a rispondere alle nuove esigenze didattiche, una scuola che già esiste, purtroppo solo in poche eccellenze. E il governo Renzi sta provando ad aiutare le amministrazioni con i progetti Scuole Belle e Scuole Sicure. La scuola com'è e la scuola come dovrebbe essere, la faccia innovativa e quella preoccupante, le mette a confronto un'installazione in legno ideata da Cittadinanza Attiva, in viaggio in 8 piazze italiane per sensibilizzare istituzioni e cittadini a una scuola più sicura e più accessibile. Dopo Torino, Padova, Modena, Spoleto, Milano e Udine, la struttura sarà a settembre anche a Napoli e a Roma. La responsabile del settore scuola di Cittadinanza Attiva, Adriana Bizzarri, ci accompagna nel viaggio all'interno della scuola come dovrebbe essere, ben visibile nell'ala OK dell'installazione itinerante, una scuola che però in tempi di risorse scarse non tutte le amministrazioni possono permettersi. Leggermente più costoso sì, però ovviamente paga in termini di durata, paga in termini di salute, paga in termini di anche vivibilità della scuola stessa. Vedo dei banchi molto particolari rispetto a quelli che siamo abituati a vedere. Sì, con forme a trapezio o a onda, come si vede, proprio perché consente di fare lavori individuali, lavori di gruppo, di team, diciamo gruppi di approfondimento, in cui appunto il ruolo del docente diventa più appunto il ruolo da coach, da coordinatore. E come vediamo anche gli zainetti o sono riposti al di sotto dell'apposito pianale della sedia, quindi sedie con rotella e poi con un piano porto zaino, oppure come vediamo è auspicabile avere degli armadietti per ciascuno studente proprio per riporre le proprie cose, magari anche il cellulare. Sul tema delle barriere architettoniche. Anche la conformazione dei banchi consente l'altezza e lo spazio fra le zampe dei banchi consente effettivamente facilmente che la carrozzina possa essere infilata. Noi non siamo molto favorevoli ai banchi speciali cosiddetti, perché questo ghettizza ulteriormente il ragazzo con disabilità motorie, e così anche all'ingresso ovviamente cioè immaginiamo che non ci debbano essere barriere di alcun genere. In quanti anni si arriverà a questo tipo di scuola? Ma non è detto che ce ne vogliano molti, ecco, certamente almeno 10 anni, quello è quello che immaginiamo, sia per l'edilizia, quindi per le strutture, che per gli arredi interni. Basta voltare lo sguardo e si ritrova la scuola peggiore, quella che in tanti hanno frequentato. L'associazione che si batte da tempo per un'anagrafe dell'edilizia scolastica racconta anche la faccia KO dell'installazione. Spesso i materiali sono tossici, i materiali di cui sono fatti banchi e sedie, e questo insomma lo sappiamo da tante indagini che ormai a livello europeo soprattutto si fanno. Spesso sono inadeguati anche nelle altezze, perché sappiamo che ogni fascia d'età necessita ovviamente di dimensioni di banchi e sedie diverse. L'ideale sarebbe che fossero regolabili. Sono spesso addossate a termosifoni o a finestre, come nel nostro caso, quindi ad altezza testa di ragazzo, e non è possibile appoggiare lo zaino, e quindi appunto lo si butta per terra, così come spesso anche gli indumenti, ovviamente il giaccone o i giubbini vari, non si sa dove tenerli. Quindi questo, peraltro ci sono le classiche gomme da masticare anche appiccicate sotto, quindi è chiaro che in un ambiente degradato i comportamenti, diciamo, vandalici sono stimolati. Le mura della classe sono mal ridotte e ci sono infiltrazioni di acqua e crepe, come si può vedere. Purtroppo ancora la situazione è grave, quindi circa il 70% delle scuole presenta delle lesioni anche di tipo strutturale, di diversa entità ovviamente, non vuol dire che siano a rischio crollo. La cosa secondo noi più grave in questa fase è proprio l'assenza di manutenzione, quindi 7 scuole su 10 lamentano proprio il fatto di non avere manutenzione né ordinaria né straordinaria. Per capirci, è a causa di ciò che avvengono i famosi crolli dei soffitti e dei controsoffitti in tutta Italia, quindi in questo non c'è differenza fra nord, centro e sud. Oltre alla vicenda già citata di Vito Scafidi, il caso simbolo è quello della scuola di San Giuliano di Puglia nel 2002, quando 27 bambini morirono a causa del crollo provocato dal terremoto. L'installazione di cittadinanza attiva è completamente costruita in legno. Abbiamo chiesto ad Adriana Bizzarri se può essere il materiale del futuro. Dà la possibilità di avere costi certi, tempi assolutamente contingentati. Pensiamo all'Emilia Romagna, sono state costruite 58 scuole in 60 giorni, ma il vantaggio ulteriore è ovviamente l'efficientamento energetico, l'antisismicità, ma anche la rimodulabilità, quindi il riutilizzo dei materiali una volta che dovesse essere dismessa, cosa che non è praticabile con le altre modalità classiche. Dopo il terremoto in Emilia, dunque, le scuole sono state ricostruite molto velocemente e in legno, un materiale utilizzato per gli istituti scolastici soprattutto nel nord Europa. Paolo Bentivoglio di Federlegno Arredo a Solegno prova a spiegare i vantaggi. Scuole in legno ne esistono e ne esistono molte, ne sono state realizzate moltissime da molte aziende che fanno parte della nostra associazione. È un materiale che si presta molto bene per questo tipo di realizzazioni, è un materiale che rispetta l'ambiente, quindi ecosostenibile, permette di ottenere prestazioni energetiche e risparmi energetici importanti, è un materiale leggero, è antisismico. Quindi questo va direttamente ad impattare sull'aspetto della sicurezza e, caratteristica non secondaria, è un materiale che permette grande velocità nella realizzazione, quindi permette di lavorare molto su tutto quello che è il preassemblaggio in stabilimento e quindi ridurre al minimo le tempistiche di cantiere. Quanto costano? Per i costi dipende molto dal livello di finitura e dal livello di impianti e di impiantistica che si vuole mettere all'interno delle scuole, quindi è difficile dare un prezzo da questo punto di vista, però a me piace spendere uno slogan: chi più spende meno spende. Non è da valutare solo il budget iniziale, ma il fatto di costruire bene e quindi di realizzare opere di qualità permette poi di non avere alti costi di gestione, non avere problematiche nel futuro, e quindi tutto questo va tenuto in considerazione. Solitamente le scuole sono edifici che vanno al massimo a 2 o 3 piani fuori terra, è raro trovare scuole che abbiano delle dimensioni maggiori, quindi di solito sono edifici non molto grandi e come tempistiche in 3-4 mesi può essere realizzata una scuola da zero. Tra le amministrazioni che stanno scegliendo di costruire scuole in legno c'è il Comune di Milano, che anche grazie ai fondi stanziati dal governo può avviare i progetti cittadini di ammodernamento degli istituti scolastici. Se ne sta occupando l'assessore ai lavori pubblici Carmela Rozza. Praticamente ho progettato 3 scuole in legno, una già finanziata che è la scuola di via Viscontini al Parco di Trenno e che aveva il bando, sta per uscire, e sono state finanziate altre 5 scuole, fra cui 2 in legno, e quindi andremo a costruire 3 scuole in legno. Non solo sicurezza ma anche bioarchitettura, noi abbiamo fatto di fatto una scelta anche grazie alla collaborazione con Federlegno di indirizzare l'edilizia scolastica verso la bioedilizia, perché è un luogo sano, a emissioni zero, e tra l'altro la scelta della costruzione in legno è funzionale rispetto anche a future modifiche della società o degli spazi, delle necessità, perché chiaramente la costruzione in legno è modulare, quindi posso immaginare nel futuro, se ci sono esigenze aggiuntive, di aggiungere un modulo o modificare la struttura stessa senza grossi impegni economici. Una politica, quella della bioarchitettura, seguita dal Comune di Milano, che potrebbe essere imitata da molte altre amministrazioni, anche grazie al tour di cittadinanza attiva, come rivela il project manager dell'installazione, Luca Bazzoli. Ci siamo interfacciati durante queste tappe anche con molti amministratori locali, tecnici del comune, che quindi si occupano anche di acquisti e di manutenzione negli edifici scolastici. Ed è successo per esempio a Torino il fatto che un amministratore locale, un sindaco di un piccolo paese, abbia visto la faccia ok della scuola, abbia telefonato ai propri assistenti prendendo foto direttamente dicendo voglio una scuola così, perché in quel momento aveva appunto dei fondi da investire e ha detto facciamola in questa maniera. Quindi molto spesso bisogna ispirare il cambiamento tramite gli esempi concreti. Una scuola al passo con i tempi, dunque, nella quale gli studenti possano sentirsi al sicuro e senza rischi per la propria incolumità. Una scuola così si deve e si può. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.